chi io? C'è qualcuno che mi ascolta qua. Chi c'è che ascolta qua avanti? Non ti capisco, sei troppo bassa, cosa stai dicendo? Non ho capito. Ah, ti amore solo, cosa hai detto? Ella, ella. E tu chi sei? L'uomo lì. Chi sei? Come ti chiami? Avanti, la vergogna hai. E no, la vergogna hai, come ti chiami? E beh, dove rispondi? E beh, dove senti? Ma sei diventato rosso. Eh? Vergogna hai. Ogni tanto ne esce uno nuovo di questi malati di mente. A te, c'ho Bacchisio. Io ho Bacchisio.